Ad un ascoltatore non è andata giù la concezione costruttivista delle leggi fisiche cui abbiamo fatto cenno non per la prima volta in questi 16 anni di trasmissione, a dire il vero. Contrariamente alle nostre intenzioni, egli ritiene le nostre considerazioni fisico-scettiche, le chiama, e fra l'altro dice che queste nostre considerazioni potrebbero applicarsi a pochi casi, di cui il sistema tolemaico sarebbe il miglior esempio. Gentilmente ci fa notare che Tolomeo aveva messo su un sistema complicatissimo per descrivere il moto del Sole e dei pianeti intorno alla Terra, un sistema che è crollato quando gli uomini di scienza hanno ripreso a far funzionare il cervello piuttosto che farsi guidare da considerazioni mistico-religiose. Del resto, dice ancora il gentile e convinto realista ascoltatore, del resto che la Terra girasse intorno al Sole era stato dimostrato fin dai tempi della Grecia antica, ma a quei tempi le persone in grado di capire e divulgare erano troppo poche, e così è stato necessario aspettare un paio di millenni per arrivare agli stessi risultati, sia pure per via diversa, e con la differenza peraltro non trascurabile che mentre Ipparco si era limitato ad una dimostrazione basata su prove e considerazioni di carattere empirico, Copernico formulò delle leggi che rispecchiavano perfettamente accurati risultati sperimentali e non sempre intuizioni, per quanto brillanti. Quindi, cari ragazzi, nell'affettuosa conclusione, occhio a sostenere l'insostenibile per tirar l'acqua al vostro mulino. Ringraziamo per l'attenzione, ma rimaniamo, ahimè, della nostra opinione, anche perché la storia della scienza non si è svolta come il nostro ascoltatore vorrebbe. È vero che Copernico si lamentasse della complicatezza del sistema tolemaico, ma è anche vero che il numero dei cicli non era tanto elevato nell'astronomia tolemaica quanto asserisce Copernico. Né questi cicli peraltro mancavano nella sua. Così Mercurio corre su 7 cerchi in tutto. Sono parole di Copernico alla chiusa del suo Commentariolus. Venere su 5, la Terra su 3 e attorno ad essa la Luna su 4. Finalmente Marte, Giove e Saturno su 5 ciascuno. Il totale fa 34. E sono appena 6, in definitiva, in meno rispetto a quelli ipotizzati da Tolomeo. Sì, si è fatto economia, ma nemmeno poi tanto. Lo storico della scienza Alexander Coiré sostiene che le prove che Copernico allega per la sua dottrina, come quelle relative all'immobilità del cielo, sono assai curiose e che, propriamente parlando, non provano assolutamente niente. Le sue procedure scientifiche non sarebbero aliene contraddittoriamente dall'applicare all'universo un punto di vista estetico, come quando sostiene che soltanto il movimento circolare sarebbe naturale, mentre quello rettilineo sarebbe contro natura. Quindi gli accurati risultati sperimentali di Copernico, quelli che tanto piacciono al nostro ascoltatore, sembrandogli così qualitativamente diversi sia rispetto a quelli del fortunato Tolomeo come a quelli dello sfortunato Ipparco, che a dire il vero andrebbe sostituito nel ruolo da Aristarco di Samo, del quale perlomeno rimane qualche scritto e non soltanto testimonianze indirette. Allora questi risultati sperimentali non ci sono mai stati. Diciamo che siano stati sussidiati da considerazioni di tutt'altra natura. Un bel esempio di quel che vogliamo dire ci viene dall'uso che Georg Joachim Lausken, detto retico perché nato a Feldkirch nell'antica Rezia, ha fatto del De Revolutionibus di Copernico. Si diceva in giro che Copernico avesse nascosto un asso nella manica, e il 23enne retico si decise a chiedergli udienza a Freuenburg. Non solo venne ricevuto, ma gli fu messa in mano una copia del manoscritto che il prudente Copernico accetterà di far pubblicare soltanto allorquando, sentendosi morire, saprà di non doverne rendere conto poi a nessuno. Retico rimane a studiarsi questo manoscritto per 2 anni e poi, entusiasta, ne fa un riassunto scritto per il suo maestro, tal Johannes Schöner, che al volo, nel 1540, al volo, a Danzica, così come lo riceve, lo fa stampare. In questo riassunto, Retico fornisce un'ampia interpretazione del ruolo delle variazioni dell'eccentricità dell'orbe terrestre. Tanto ampia questa interpretazione che spiega l'intera storia del mondo. Allora, quando l'eccentricità era al suo massimo, la Repubblica Romana si trasformò in monarchia. Quando l'eccentricità fu in diminuzione, l'Impero Romano del pari declinò. Quando essa di nuovo raggiunse il suo valore medio, nacque l'Islam, tocchi si vede, e un altro grande impero. Quando però l'eccentricità giungerà al minimo, questo altro grande impero si sfascerà rapidamente. E infine, quando l'eccentricità ritroverà nuovamente il suo valore medio, si potrà attendere il ritorno di Cristo in terra, perché allora il centro dell'orbe terrestre sarà nello stesso luogo in cui si trovava al momento della creazione del mondo. Così scopriamo che non è vero affatto che quando con Copernico vi è messo in naftalina il sistema tolemaico, gli uomini di scienza hanno ripreso a far funzionare il cervello piuttosto che farsi guidare da considerazioni mistico-religiose. Il nostro ascoltatore si sbaglia ancora, come sbaglierebbe chi, affidandosi ad un'ottimistica ed edulcorata storia della scienza, dissociasse le teorie di Newton dalla sua teologia e dai suoi studi di alchimia. La ratifica di una legge fisica non è questione di numero delle persone in grado di capire, né di numero di persone in grado di divulgare. La rivoluzione dimenticata di Lucio Russo lo dimostra ampiamente. Né è tantomeno è questione di cervelli che riprendono a funzionare dopo chissà quale sonno. La ratifica di una legge è questione di coerenza nel sanare le differenze da un paradigma, e la costituzione e poi il mantenimento di questo paradigma è anche sì questione di contrattazione sociale. Scettico è chi scredita la scienza assumendo come inconoscibile la realtà da conoscere e sostanzialmente inetti gli strumenti conoscitivi degli esseri umani. In ciò è un dogmatico, il più dogmatico di tutti. Può recitare la sua parte nel mercato delle epistemologie per lo spazio che vi trova, grazie alle contraddizioni di chi ritiene compito della conoscenza approntare copie del reale, senza sapere come portarle poi al confronto reciproco, e di chi vorrebbe approntare nel colpo solo di una facoltà misteriosa sia la copia sia la realtà a cui questa copia si riferisce. A scettici, realisti e idealisti si può contrapporre l'esigenza di liquidare ogni teoria della conoscenza, liberandosi dalla filosofia e dalla sua funzione subordinante esercitata in nome e per conto di ogni forma di potere. Ci vien detto che vorremmo tirar l'acqua al nostro mulino, e di ciò non ci vergogniamo affatto, anzi ne siamo fieri, ma dopo tanta fatica, l'ascoltatore ci comprenderà, dopo tanta fatica sarebbe seccante veder viaggiare la nostra acqua verso il mulino altrui.